Te sossiediti, su quella seggiola. Stavolta ascoltami, senza interrompere. È tanto tempo che volevo dirtelo, vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Nella tua trappola ci sono caduto anch'io, affronti il prossimo e lascio il posto mio. Povero diavolo, che pena mi fa, di quanto ha letto lui, ti chiederà di più, che lo concederà. E se verrai di là, te la dimostro.